in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Oggi i quotidiani, a differenza di ieri, hanno delle aperture leggermente diverse una dall'altra, anche se i temi principali restano quelli delle polemiche seguite al funerale a Roma del boss del clan Casamonica, Vittorio Casamonica, e anche quello che è successo ieri sui mercati finanziari con, lo avete sentito sicuramente nei GR fin da ieri, con tutte le borse mondiali che hanno chiuso in perdita, soprattutto per questa paura che viene dalla frenata dell'economia cinese. E allora cominciamo dal Corriere della Sera, che ha appunto il titolo principale al centro della pagina: la frenata cinese spaventa i mercati, con numerose analisi tra le quali vi segnalo quella di Federico Fubini: debito, tassi e le ragioni del tracollo. La fotonotizia invece è dedicata ai due film in preparazione su Enzo Ferrari. Uno dovrebbe avere come protagonista Christian Bale, che è l'ultimo Batman per intenderci, un bravissimo attore che è fotografato qui con la moglie e dovrebbe essere il protagonista del film di Michael Mann, uno dei più grandi registi di Hollywood, di seconda generazione. Non è un grande vecchio, ma non è neanche di ultima generazione. E invece un grande vecchio, Clint Eastwood, dovrebbe dirigere un altro film sempre su Enzo Ferrari. Questa volta il protagonista sarebbe Robert De Niro. E vi segnalo anche una notizia su Jonathan Franzen. Ieri abbiamo segnalato che il magazine del Sole 24 Ore, che è in edicola da ieri ma lo sarà per le prossime 3 settimane, ha questa grande anteprima di un capitolo del nuovo romanzo di Jonathan Franzen, il quinto romanzo di Jonathan Franzen, che però è considerato già forse oggi il più grande scrittore americano contemporaneo. Il suo nuovo romanzo Purity uscirà in settembre negli Stati Uniti, mentre noi dovremo aspettare in febbraio. Su Hill c'è un capitolo in anteprima, ma la notizia del Corriere della Sera viene invece da una intervista che Jonathan Franzen ha rilasciato al quotidiano britannico The Guardian, dove spiega che aveva pensato di adottare un orfano iracheno e poi però ha rinunciato. E così Giuseppe Guastella, prendendo spunto da questa intervista rilasciata al Guardian, ci racconta l'adozione letteraria che voleva Franzen. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, perché vi dicevo la notizia di ieri è quella appunto della gelata sulle borse, e da qui il titolo: l'economia cinese gela le borse, bruciati, pensate, in 5 giorni 2200 miliardi. I cali infatti di questa settimana, che è appena chiusa la settimana finanziaria, è stata la peggiore settimana dei listini dal 2011, e in uno schemino, in un grafico sulla prima pagina del Sole 24 Ore, si può vedere che la borsa che ha perso di più in questa settimana nel complesso è stata quella di Shanghai, cioè la principale borsa cinese, che ha perso l'11,54%, segue Francoforte, -7,83%, Milano, -6,46%, poi Atene, -5,73%, e la quinta peggiore è Madrid, -5,58%. Vi segnalo l'analisi di Fabrizio Galimberti, economista e storico collaboratore del Sole 24 Ore: la crisi non uccide il dragone, quindi comunque un invito anche a una sorta di ottimismo forzato, ma ottimismo della ragione. Cioè, la Cina resta la seconda economia del mondo, ci sono state delle correzioni, nessuno avrebbe potuto pensare che continuasse a crescere ai ritmi tenuti fino a pochi mesi fa, e quindi insomma continuerà a essere in prospettiva probabilmente l'economia, anzi si sa già che probabilmente supererà gli Stati Uniti nei prossimi 5 anni come prima economia del mondo. Ma vediamo sempre sulla Cina anche l'analisi di Rita Fatiguso, che inizia in prima pagina e poi continua a pagina 2: Made in China in grave sofferenza, perché il tema un po' che secondo molti è anche alla base della svalutazione della moneta locale decisa settimana scorsa è che la Cina è ancora la piattaforma produttiva del mondo e quindi è una economia export oriented, come scrive Rita Fatiguso. E vi leggo quindi la prima parte della sua analisi: non l'abbiamo fatto per le esportazioni, continua a ripetere come un disco rotto il governatore della People's Bank of China Zhu Xiaochuan, riferendosi all'improvvisa svalutazione dello yuan decisa in pieno Ferragosto. Eppure, davanti a un'economia che non riesce proprio a cambiare pelle abbandonando il modello export oriented, si aprono continuamente nuove falle in svariati settori produttivi, e risulta davvero difficile pensare che non sia così, che uno yuan leggero possa essere strategico. Ma infatti, al di là delle dichiarazioni, probabilmente è proprio così. Vi segnalo poi che oggi non c'è la guida dell'Amico Sole perché sappiamo che questa iniziativa che approfondisce alcuni temi è dal lunedì al venerdì, però vi anticipo, il Sole 24 Ore anticipa quelli che saranno i temi della prossima settimana, divisi in due parti: riforma della pubblica amministrazione e scuola. Per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, del resto lo vedremo insieme lunedì, si parlerà di pubblico impiego, e per quanto riguarda la scuola, della famosa alternanza con il lavoro. Vi segnalo inoltre che oggi con il Sole 24 Ore, come ogni sabato, non c'è stata pausa estiva, è in edicola Plus 24, il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, e la copertina appuntamenti di mercato, perché ci sono molti appuntamenti in autunno, in particolare, poi lo avrete notato anche dal battage pubblicitario delle ultime settimane su tutti i media, c'è l'IPO, l'offerta pubblica di acquisto, cioè il debutto in borsa delle Poste, e poi ci sono i possibili rialzi dei tassi di interesse che potrebbe decidere la banca centrale americana, la Fed, e poi ci saranno elezioni in Spagna e sappiamo da pochi giorni anche in Grecia, e quindi tutte le principali scadenze 2015 che in qualche modo possono influenzare le scelte di risparmio. Su Plus 24 oggi in edicola col Sole 24 Ore. Passiamo al Messaggero, che titola sui funerali, e in particolare ecco chi ha sbagliato sul boss. Sappiamo che è stata revocata la licenza al pilota dell'elicottero che ha sorvolato il funerale, la carrozza che trasportava il feltro gettando petali di rose, gli è stata ritirata la licenza, ma soprattutto ci sono altre responsabilità. In particolare Premier Renzi si è detto molto irritato per il danno d'immagine, lo vedremo magari più tardi, e questo funerale ha avuto grande eco su tutti i giornali stranieri. Vi segnalo sulla questa questione un'intervista di Valentina Errante a Raffaele Cantone, che è il commissario anticorruzione del governo. L'intervista la trovate a pagina 3, vi leggo alcune un paio di domande. Chiede Valentina Errante: sembrava la scena di un film, come è stato possibile? Ricordo che tra l'altro Cantone è un ex magistrato, quindi, perché qui ci sono anche dei risvolti appunto legali, e non ci si chiede in questa catena di errori quali siano state le autorizzazioni negate, quelle invece concesse, forse con leggerezza o forse a torto. E allora Cantone risponde: prima di tutto bisogna cogliere il significato di questo funerale. Al di là dell'ostentazione di potere e ricchezza, delle modalità pacchiane che oramai non sono frequenti neppure in occasione dei funerali dei boss del Sud Italia, c'è un altro elemento che colpisce, ed è la presenza della folla. Anche questa è una manifestazione di forza. Il consenso e la partecipazione della gente sono un messaggio, è un chiaro segnale. Non è stato un funerale normale, neppure nei numeri. È un altro elemento con il quale fare i conti. E chiede ancora Valentina Errante: è la dimostrazione che la mafia controlla il territorio? Non credo che questo funerale sia di per sé il segnale che la mafia a Roma sia più forte di quanto non pensassimo. È piuttosto un chiaro messaggio che il clan ha voluto dare in un momento di transizione e ristrutturazione del potere. E non è un caso che questo avvenga a ridosso di un'importante indagine giudiziaria che ha assestato un duro colpo all'organizzazione criminale. Infine, visto che stiamo aspettando da oltre un mese la famosa relazione del ministro dell'Interno Alfano sulla situazione di Roma, l'ultima domanda di Valentina Errante: giovedì Alfano consegnerà al Consiglio dei Ministri la sua relazione sul Comune di Roma. Pensa che questa vicenda possa avere un'influenza sulle decisioni finali? Risponde Cantone: penso che questa vicenda non abbia alcun collegamento con le responsabilità degli amministratori del Comune di Roma e con le decisioni del ministro, ma ritengo che questo episodio e queste immagini che stanno facendo il giro del mondo siano un altro colpo all'immagine di Roma dopo la tempesta di Mafia Capitale. E vi segnalo poi la prima pagina della Repubblica, dedicata a quello che viene definito l'incubo Cina che affossa le borse, è caduta anche Wall Street, con un'analisi di Federico Rampini intitolata "Come combattere la tempesta perfetta". Sulla vicenda dei funerali c'è un articolo di Roberto Saviano, una parrocchia da commissariare. Saviano se la prende in particolare con il prete e la parrocchia in cui si sono svolti i funerali, mentre la fotonotizia è dedicata a quell'episodio probabilmente di terrorismo di cui avete sentito anche nel GR, un attacco jihadista sul treno, in Francia torna il terrore. La prima pagina dell'Avvenire è invece dedicata a una notizia che in realtà è già di ieri, l'abbiamo qui a Radio 24, l'hanno già data nei GR di ieri mattina, ma che adesso possiamo anche approfondire perché poi durante la giornata sono arrivate molte notizie, ed è quella delle ruspe che hanno colpito il sito cattolico, il monastero siriano, quindi un sito cattolico del Mar Elian, dopo che è l'ennesimo episodio di distruzione di patrimonio culturale e religioso ad opera dell'ISIS, e quindi l'Avvenire apre su questo. E negli Stati Uniti, tra l'altro, dagli Stati Uniti sull'ISIS continuano ad arrivare conferme che l'ISIS sta usando armi chimiche. C'è anche la notizia del terremoto cinese, e poi vi segnalo, per chi avesse seguito o volesse l'intero reportage, che poi alle pagine 12 e 13 trovate l'intervento ieri al meeting di CL di Monsignor Galantino, che ha parlato di immigrazione ma anche di politica, delle responsabilità della politica. Siccome Monsignor Galantino sta facendo molto discutere con le sue dichiarazioni, con le sue tesi, qui avete l'occasione sull'Avvenire di rileggere tutte le sue parole e farvi un'idea, un'opinione su queste accuse che ha lanciato, senza tra l'altro fare troppe distinzioni tra centrodestra e centrosinistra, e soprattutto le sue posizioni molto forti, come del resto quelle del Papa, sull'accoglienza, sulla necessità dell'accoglienza ai migranti. L'Unità. Titolo, non so, potremmo definirlo quasi sarchiaponico, perché è questo: Roma città chiusa, punto alle mafie. Ora, dopo quello che abbiamo letto di Raffaele Cantone, purtroppo Roma non è una città chiusa alle mafie, però questa è l'interpretazione dell'Unità, sicuramente un po' ottimista, spiegata in parte dal sommario, che recita: il PD si mobilita con antimafia capitale, la città reagisce ai funerali show dei Casamonica, dal prete ignaro all'elicottero fantasma, intrecci e buchi nella sicurezza da chiarire. La fotonotizia però è dedicata al monastero di Mar Elian, abbattuto da quella che viene definita la furia dell'ISIS, e le foto poi le trovate anche a pagina 2 e 3 dell'Unità. La Stampa ha invece una fotonotizia ancora diversa, che è quella che si riferisce alla questione dei migranti e in particolare all'emergenza in Macedonia, dove, sapete, si stanno pensando di erigere addirittura un muro per bloccare gli immigrati. Anche qui c'è la Cina, ma anche il petrolio, che sapete è sceso di nuovo ieri. Cina e petrolio mandano in crisi le borse mondiali, il commento di Mario De Aglio, l'economista Mario De Aglio: la dolorosa via per raggiungere un nuovo ordine. Il Giornale titola sul funerale di Roma, definendolo una figuraccia mondiale, e il commento è l'editoriale di Vittorio Feltri. Il Libero invece parla proprio di del meeting, se vogliamo, del meeting di Rimini, dell'intervento di ieri di Monsignor Galantino, e interpreta il tutto con questo titolo: il partito del Papa, la svolta politica del Vaticano. Anche ieri il segretario della CEI, Galantino appunto, ha attaccato i partiti e difeso i migranti. Prima si era occupato di riforme costituzionali e altri vescovi di lavoro. Ormai è chiaro che hanno l'ok di Bergoglio, ma un rottamatore purtroppo l'abbiamo già, non ce ne serve uno in tonaca. Questo l'interpretazione di Libero. Ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali, ci mancano soltanto quella del Manifesto, che ha una fotonotizia con il titolo Trend V, che si richiama al film su questo treno che salvò in realtà durante la Seconda Guerra Mondiale degli ebrei che rischiavano la vita rischiavano di finire nei campi di concentramento. Qui la foto però è di oggi, anzi è di ieri, ed è stata scattata in Macedonia. Il Manifesto quindi torna sulla questione dei migranti e sull'emergenza più vistosa di questi giorni, che appunto è in Macedonia. Polizia ed esercito caricano i migranti che a migliaia premono sulla frontiera, 10 feriti. Dopo aver chiuso il confine con la Grecia, la Macedonia accusa Atene: trasporta illegalmente i profughi fino a noi. L'Unione Europea tace e stanzia nuovi fondi per i rimpatri. Intanto a Kos, l'isola greca, solo i volontari garantiscono assistenza ai rifugiati, e trovate numerosi articoli pagine 2 e 3. Su quello che è successo in Grecia con l'annuncio delle elezioni anticipate che si terranno il 20 di settembre e le dimissioni seguite, l'annuncio è seguito alle dimissioni del premier Tsipras, si esprime Fassina. ex deputato del PD che sentenzia: voto inutile, solo un esercizio ginnico, così il memorandum affonda paese partito, il memorandum dell'Unione Europea. E questa è l'opinione di Fassina, che appunto è uscito dal PD e che però viene definito dal Manifesto esponente alla sinistra italiana, perché evidentemente invece il PD per il Manifesto, ma questo è stato detto anche abbastanza chiaramente, non è più una vera forza di sinistra, ma qualcos'altro di non meglio identificato. Vi segnalo, a proposito di elezioni, due altre scadenze che sugli altri giornali trovate, una proprio non la trovate, l'altra con minore enfasi. Si voterà cioè presto anche in Turchia, il 1 novembre. Il premier Erdogan è in difficoltà dopo le ultime elezioni in cui lui aveva sperato in una ennesima vittoria con una grande maggioranza, così non è stato, e quindi appunto il 1 novembre si vota anche in Turchia. E poi si voterà presto anche in Palestina, il presidente Abu Mazen si prepara alle dimissioni. L'ottantenne leader palestinese, ci spiega il Manifesto, è probabilmente vicino a un passaggio di testimone. Comunque la data dell'elezione non è fissata, ma dovrebbe essere entro novembre. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura ancora diversa, dedicata al ministro Alfano, non tanto per la relazione sulla situazione di Roma, che dovrebbe essere presentata giovedì prossimo, ma sui suoi spostamenti. Il titolo: Alfano Airlines, i voli di Stato per la Juve e i weekend al mare. Da quando c'è la bella stagione, secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano, il ministro dell'Interno torna in Sicilia, che è la sua regione d'origine, tutti i venerdì. E poi ancora approfondimenti sui funerali di Roma. Segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché oggi naturalmente parte con due anticipi il campionato di Serie A, e quindi ovviamente grandi approfondimenti. Pronti via, via con la A scritta in rosso come Serie A, la griglia della Gazza, Paul Juve Roma, Paul Juve Roma vicina, Milan l'outsider, e poi numerosissimi approfondimenti all'interno. Su questo, sul campionato che sta per iniziare, un'interpretazione di una voce che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo, che è quella di Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore. A pagina 19 del Sole di oggi trovate il suo approfondimento: per la Serie A si apre l'anno del riscatto. Il campionato oggi parte con rigidi parametri finanziari e innovazioni tecnologiche. C'è un approfondimento appunto con tantissimi dati su questi risvolti economici del campionato, che potrebbe essere per molti punti di vista innovativo. A proposito sempre di un'analisi economica di un fatto di cronaca, a pagina 8 trovate invece l'analisi di Roberto Galullo sui rapporti della famiglia Casamonica con clan e cosche. Sono 1000 gli affiliati alla rete dei Casamonica, con un giro d'affari di 40 milioni. Ci sono moltissimi dati, che contralto una mappa di Roma e la spartizione, che indica anche la spartizione del traffico della droga a cui partecipa il clan dei Casamonica. Roberto Galullo ci spiega anche che il clan puntava anche sulla gestione del porto di Gioia Tauro, e in questo caso ha fallito. L'analisi per quanto riguarda il funerale in sé: ostentazione muscolare, messaggio controcorrente. A proposito di immigrazione, vi segnalo dal Corriere della Sera un articolo che prende spunto da alcuni dati annunciati ieri dalla ONG Save the Children, e riguarda soprattutto le sofferenze dei minori, dei minori tra i migranti. Il titolo: la nuova vita delle bimbe nigeriane che l'Italia libera dalla schiavitù. C'è questa piaga della tratta dei minori, pensate, in 8 mesi ne sono sbarcati oltre 7.000 non accompagnati. Quando non sono accompagnati naturalmente rischiano ancora di più rispetto a quando magari hanno un genitore o un parente, e rischiano di finire o magari in un racket di adozioni illegali, o peggio naturalmente nel racket della prostituzione o del lavoro minorile o dello sfruttamento, come per esempio bambini che chiedono l'elemosina. Sempre all'interno del Corriere della Sera un'intervista per un tema un pochino più leggero, che però anche qui comunque in qualche modo parliamo di sfruttamento, anche se di un altro tipo. Un'intervista di Paola Pollo a Piero Piazzi, che è un agente di modelle, e racconta come nasce una modella. Ho trovato abbastanza non so neanche che parola usare, comunque mi ha molto impressionato queste due domande. Chiede Paola Pollo: qual è il senso delle modelle usa e getta? Che costano poco. Le top di una volta avevano raggiunto tali cifre che erano diventate impossibili. Così hanno cominciato a spingere per le new face, le nuove facce. Siamo arrivati al punto che è meglio non avere un book, il librone che le modelle hanno con sé, che raccoglie le foto dei lavori precedenti, ma quattro Polaroid fatte da te, così dimostri che non hai mai lavorato e che sei nuova. E chiede Paolo Apollo: perché il meccanismo delle new face è pericoloso? Risponde Piazzi: perché arrivano che sono giovanissime, anche sotto i 16 anni, virgola, malgrado non si possa. E allora com'è possibile che poi vengono usate? Ci si chiede, ma naturalmente Piazzi non elabora. Una stagione sfilano e sono in copertina, e sei mesi dopo non le vuole più nessuno. Loro si perdono, vanno in crisi, non capiscono e non mettono via i soldi neppure per un motorino. Non è bello, non va bene, non è professionale, è una falsa illusione che è pericolosa quasi quanto la cocaina degli anni 80 e 90. E a proposito di Cara Delle Vigne, che è la modella, sapete, di appena 23 anni, ma in realtà che lavora appunto da quando ne ha meno di 16, che si è qualche giorno fa annunciato il suo ritiro dalla moda per dedicarsi soprattutto al cinema, chiede Paola Pollo: si è ritirata perché è stressata e disgustata? E risponde Piazzi: la seguo quando dice che è tutto troppo veloce, le modelle si usano e si gettano, ma non sul discorso delle pose forzatamente sexy e quant'altro, non ci sto. Lei è diventata famosa grazie a quel lavoro, perché ha giocato molto sulla sua presunta omosessualità, e tutto è stato più facile per lei perché ha sempre avuto una famiglia importante alle spalle. No, direi che non si deve lamentare. Non so se Paolo Piazzi conosce Cara Delle Vigne, però in queste interviste che ha rilasciato la modella ha spiegato e come darle torto, che in effetti ragazze giovanissime hanno spesso delle pose molto sexy che stonano probabilmente con un'età in cui forse sì, per quanto tutto sia anticipato in quest'epoca, forse il sesso non dovrebbe essere al centro del divertimento, dello sfogo, degli sguardi di ragazzine di 14, 15, 16 anni. In ogni caso, questa intervista ci apre un po' lo sguardo sul mondo della moda dal punto di vista di chi gestisce le modelle. A proposito sempre di sfruttamento, ancora un argomento diverso, ma purtroppo siamo sempre lì, perché noi esseri umani siamo specializzati in qualche modo nello sfruttarci a vicenda, nello sfruttare il pianeta, nello sfruttare gli animali. E allora sull'Avvenire un approfondimento di Barbara Oglietti sugli allevamenti intensivi, l'insostenibile paradosso degli allevamenti intensivi, animali maltrattati, rischi per l'ambiente e la salute. Molto interessante, appunto, ci fa riflettere su cosa c'è dietro quello che poi mangiamo, argomenti che abbiamo trattato spessissimo in questi mesi di Expo, perché il tema di Expo è proprio nutrire il pianeta, la nutrizione, il cibo. E allora ci spiega Barbara Oglietti: mucche, galline e maiali stipati in spazi angusti, in sofferenza, imbottiti di antibiotici, nutriti con alimenti che provocano depauperamento delle terre. L'obiettivo è ottenere il massimo profitto col minimo dispendio, ma con elevati costi ambientali, sanitari e morali. Il problema della concorrenza sleale di quei paesi che non effettuano controlli. Passiamo a un altro argomento. Vi dicevo, tra l'altro, solo per restare un attimo sull'Avvenire, vi ricordo ancora, a pagine 12 e 13 trovate tutto il reportage dal meeting di ieri, dagli incontri che ci sono stati ieri al meeting di Rimini, che poi dura in realtà fino al 26 di agosto, con un approfondimento tra l'altro sul microcredito e poi l'intervento, come dicevamo, di Monsignor Galantino, il titolo in questo caso è "Accettare il nostro limite ci apre alla condivisione". Dalle pagine interne invece della Stampa un reportage di Giulia Zonga da Tianjin. Abbiamo parlato della Cina perché ieri ha influenzato negativamente tutte le borse, ma in Cina c'è stato settimana scorsa anche quel impressionante incendio in una città industriale, appunto è Tianjin, e ora Giulia Zonca, come altri giornalisti occidentali, è andata a vedere con i suoi occhi, e il titolo del reportage: tra gli sfollati a Tianjin con l'incubo del cianuro, è la nostra Chernobyl. Ci sono ancora incendi a più di una settimana di distanza e sale a 30.000 il numero degli intossicati, un numero che purtroppo probabilmente è destinato a salire ancora. Ieri abbiamo letto sul Sole 24 Ore sul tema del lavoro del sabato, sollevato alla Electrolux, dove tra l'altro si è lavorato a Ferragosto, quindi su come comunque potrebbero cambiare, o alcune aziende stanno cercando di cambiare le regole sulla settimana, su quanto deve durare una settimana. Ora c'è sulla Stampa un approfondimento, se vogliamo, di senso opposto, cioè in Giappone Uniqlo, la grande catena di abbigliamento che in Italia ancora non è arrivata, ma molti italiani conoscono perché negli Stati Stati Uniti e in Inghilterra per esempio è molto presente. Ecco, Uniqlo ha sperimentato la settimana non corta ma cortissima, perché si lavora 4 giorni. Al Giappone è il primo test. Naturalmente dipende tutto da, tra l'altro sono 4 giorni però lavorando 10 ore al giorno, dipende tutto da come viene organizzato il lavoro. E quindi è stato chiesto da Giuseppe Bottero anche un parere a Federico Marchetti, fondatore di Yux, il più grande sito di e-commerce europeo, che tra l'altro si è appena fuso con Net-a-Porter creando un gigante dell'e-commerce di moda. E Yux dice: in azienda noi non abbiamo orari fissi, contano gli obiettivi. Quindi questo è ancora un altro tema, quello del, appunto, del lavorare per obiettivo, magari del telelavoro, che anche questo significa non essere presenti in azienda ma comunque consegnare il lavoro o portare a termine un compito entro la data, l'orario previsto. Un'ultimissima segnalazione da Libero: si è parlato tantissimo di questa, lo avete sentito anche nei GR, del bambino di Martina Levato e Alexandre Butcher. Ecco, il Libero intervista l'avvocato del ragazzo che è stato sfregiato da Martina e Alexandre Butcher e per questo crimine sono stati condannati a 14 anni. Il titolo dell'intervista è: Pietro è la vera vittima ed è rovinato, deve portare una maschera davanti a anni di dolori e operazioni, nei due carnefici nessun ravvedimento. Per ricordare, appunto, visto che in questi giorni si è parlato solo di Martina, di Alexander e del loro bambino Achille, che forse appunto c'è anche un'altra vittima di cui andrebbe ricordata ogni volta che si parla di questa coppia di sfregiatori. Ultimissima segnalazione prima delle notizie sul traffico, sull'Unità, un'intervista a Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, esponente del centro-sinistra, molto critico con Renzi. A Renzi serve un partito vero, il PD non è mai nato. E con questo ci lasciamo per le notizie sul traffico, ci ritroviamo subito dopo per la rassegna stampa europea.